avresti detto che è una tela di Rembrandt. Camminasse silenziosa e senza cornice. Verso la fine dell'anno 1612, in una astratta Parigi, un giovane camminava, forme anatomiche di gesso, frammenti e torsi di antiche dee, forme anatomiche di gesso, frammenti e torsi di antiche dee. Non scorre il sangue sotto questa pelle d'avorio, e la vita non gonfia sotto questa purpurea rugiada. Le vene, le fibrille, la trasparenza ambrata delle tempie. Le vene, le fibrille, la trasparenza ambrata delle tempie. La fiaccola di Prometeo ti si è spenta più volte tra le mani. E continua un pensiero che bisogna cogliere e rendere. Un poeta continua un pensiero che bisogna cogliere e rendere. Ogni figura è un mondo. Un ritratto il cui modello è apparso in una visione sublime, disegnato da una voce interiore, spogliato da un dito celeste, che ha mostrato nel passato di tutta una vita le fonti stesse dell'espressione. Le fonti stesse dell'espressione. Questa parte palpita, ma quest'altra resta immobile. La vita e la morte lottano in ogni particolare. La vita e la morte lottano in ogni particolare. Qui è donna, la statua, più la cadavere. La fiaccola di Prometeo ti si è spenta più volte tra le mani. E continua un pensiero che bisogna cogliere e rendere. Un poeta continua un pensiero che bisogna cogliere e rendere. Non scorre il sangue sotto questa pelle d'avorio. E la vita non gonfia sotto questa purpurea rugiada. Le vene, le fibrille, la trasparenza ambrata delle tempie. Non scorre il sangue sotto questa pelle d'avorio. E la vita non gonfia sotto questa purpurea rugiada. Le vene, le fibrille, la trasparenza ambrata delle tempie.